Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Abbiamo chiuso la prima parte con Good Times, Good Times, lo pseudonimo che si è scelto Frank Cinelli, italiano, cresciuto a Londra. Kids è il titolo del brano che ha chiuso la prima parte. Seconda parte del volume numero 5 di Eclettica, che invece si è aperta con un brano che potremmo considerare una novità, anche se è un brano che ormai ha quasi un anno sulle spalle, ma d'altronde Eclettica non è che deve trasmettere solo le ultime novità, deve trasmettere sensazioni, deve trasmettere emozioni. E quando io, per colpa mia, vengo a conoscenza di un brano dopo quasi un anno dalla sua uscita, non posso far altro che metterlo, visto che è così trascinante come The Plot, da parte della formazione newyorkese White Rabbits, brano che ci siamo appena ascoltati e che era estratto dal loro album Fortnightly, uscito appunto quasi un anno fa ormai per la Say Hey Records. Si rimane negli Stati Uniti in quest'ultima mezz'ora di Eclettica dell'intera settimana con Chris Bathgate. Viene da Ann Arbor, Michigan, una terra nota più che altro per storici rockers. Lui ha diviso le assi del palcoscenico con la formazione che è passata anche da queste parti. Sto parlando di Eclettica, non dell'Italia. Il Saturday Looks Good to Me, ed ora esce con un primo album che viene pubblicato anche in Europa, dopo due che sono stati pubblicati solo negli Stati Uniti. Chris Bathgate, che incide per Tangle Up ed esce nel mese di marzo con A Cork Tail Wake, dal quale vado ad estrarre Serpentine. Serpents on the tartness in my chest, rest and subsides and wandled on with a hum that split its length. Does my name sting your tongue? Now does it, babe? Days my thoughts swirling, some shrill sad cannonade, and one such spur that caused my throat to creak, the one dull dawn that I've sentenced to repeat. Si fa di bello in Italia? Sono un pianista, jazz. Insegno qui al conservatorio. Mm-hmm. Insegno jazz. E sono al piano, via. E così allora non ce l'ha un lavoro, eh? Le ho detto che sono pianista. Certo. Certo. Sì, insomma, soltanto quel lavoro lì, eh? Perché per lei suonare non è un lavoro. Cos'è, una buffonata? No, che dice? No, si figuri se mi permetterei. Anzi, gli dirò. In famiglia c'è una cugina che suona il... vino. Cosa? Vino. Il pianino. Hey. Utajima, isola del canto, ha solo 1400 abitanti e una costa lunga meno di 3 miglia. In due punti dell'isola la vista è di una bellezza incomparabile. Uno è quello dove sorge il santuario di Yashiro, che guarda verso nord-ovest e si trova nei pressi del crinale più alto dell'isola. Il tempio domina il panorama dell'ampia distesa del golfo di Ise e l'isola è situata proprio nello stretto che unisce questo golfo all'Oceano Pacifico. Da nord si allunga la penisola di Kita, mentre quella di Atsumi si spinge verso nord-est. A ovest si intravede la linea della costa, fra i porti di Yamada e di Yokkaichi, Atsu. Questo era l'incipit di La voce delle onde, di Yukio Mishima. Spilling out all the green and the light one. Quasi in chiusura dell'ultima parte di Eclettica della settimana, ci siamo ascoltati in sequenza due brani che sono fra quelli che più vi piacciono, come quello dei Misophone che si è appena chiuso, The Sea Has Spoken, o come quello prima, un brano che è presente ormai da tantissimi mesi e di tanto in tanto ritorna nelle playlist di Eclettica, ma non riesce ad abbandonarle perché siete voi che continuate a parlarmene nei vostri mail, mi raccontate delle sensazioni che vi provoca l'ascolto di Shake Your Shape dei Joycat. Si chiude invece con un brano che passa per la prima volta da queste parti, una formazione che viene da Sean Payne, Illinois, loro si chiamano Headlights, un album uscito per Polyvinyl dal titolo Some Racing, Some Stopping, dal quale vado ad estrarre le note pop di Cherry Tulips. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 17, volume numero 5, indice, The Wheat Sundays, Lady Hawk, Megaphone, Young Galaxy, Good Times, Good Times, White Rabbits, Chris Bathgate, Joycat, Misophone, Headlights. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.